Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oramai ho l'occhio allenato. Riconosco la cacciatrice. Riconosco la cacciatrice e immagino quale sia l'arma attraverso la quale cerca di portare a casa la selvaggina. È una ragazza che sta seguendo la deriva sotterranea rispetto ai binari che stiamo percorrendo, di un incontro al buio, di una persona che ha conosciuto, frequentato, immaginato, sognato, desiderato attraverso l'impalpabile e ambiguo mondo della rete, e adesso finalmente va al grande appuntamento. Voi direte: da cosa te ne accorgi? Me ne accorgo dal numero dei messaggi che si scambia, me ne accorgo dal suo volto, me ne accorgo dallo stato d'attesa, me ne accorgo da certi impercettibili segnali che ormai mi danno, senza equivoco, senza possibilità di sbagliarmi, il preciso indicatore di una donna che va all'appuntamento al buio. Sei pensierosa? No, veramente stavo aspettando, aspettavo di parlare, insomma. Eh beh, si vede che avevi bisogno di parlare con qualcuno. Sì, sto leggendo questo libro, sto leggendo un libro di un mio amico scrittore che sto andando a trovare praticamente. Mi leggo un po' di aforismi. Ma quindi vuoi sapere cosa ha scritto, se no dopo non sei pronta all'incontro? No, beh, certo, devo un po'... Ti documenti? Mi documento un po', insomma, poi sono tutti aforismi, quindi non è neanche difficile, insomma. Ma è divertente un uomo che parla per aforismi? Dipende dall'uomo, questo uomo in particolare è piuttosto affascinante, quindi sì. Poi a me piacciono gli aforismi, le massime, mi piacciono le persone sagge. Vorrei un uomo giovane, bello e saggio. Ma quando uno diventa saggio quando è vecchio? Infatti. Da giovani si scapestrati. Esatto. Ma perché vuoi quagliare con questo tuo amico? Mi piacerebbe. Vabbè, cominci con l'aforismo, ci vuole un po' di tempo, però io comincerei la cosa più difficile. Non so, conoscendo gli intellettuali, in realtà hanno questa maschera che loro cercano soltanto delle muse ispiratrici, persone che capiscano la loro raffinatezza, ma in realtà tutt'altro trattamento si aspettano. Io non perderei tempo a leggere il libro. Grazie per l'informazione. Mi concentrerei più sulla biancheria intima, cose del genere. Devo dire che questa è una cosa che ho già pensato, ha già provveduto. Vabbè, diciamo, hai una gamma di possibilità, ecco. Ma lui sa che fra un po' attenterà qualcuno alla sua virtù, se lo immagino. Beh sì, certo, mi aspetta, anche perché non è che proprio abita a due passi da casa, quindi sa che una donna fa un viaggio lungo, lo viene a trovare bella acconciata, si prepara sui suoi aforismi, starà lì a aspettarti anche lui con la vestaglia, il foulard e lo champagne in fresco. Questo è un ottimo suggerimento. Non lo so, immagino. Me lo auguro. Ma tu come te la immagini questa cosa adesso? Come te la immagini? Vi vedete, parlate del più e del meno, andate a mangiare fuori? Come scatta la scintilla? Com'è che lui riuscirà a capire in realtà cosa si nasconde sotto gli abiti? Tanto è quello. Come me lo immagino? Immagino di arrivare e di incontrarlo e sicuramente, non so, prima ci sarà un invito a cena. Sempre mangiare prima, una cosa pesantissima però. Con l'alito che sa di cipolla, poi di brutto. Secondo me, guarda, non la buttare in aforismi, sennò passa una mesata. Lascia stare il libro, lascialo sul sedile. No, secondo me, infatti, è più probabile che mi prenda, mi porta direttamente nella sua casa e... Dici? Sì. E sì, ti salta addosso. Vabbè, questo è un tuo sogno. Potrebbe anche essere già successo, però. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Hai conosciuto uomini così, di questo tipo? Mordi e fuggi? Ma no, purtroppo no, ce ne sono pochi. Ma racconti, cioè, c'è una storia che diciamo ti ha lasciato questa traccia indelebile, tanto che vuoi ripetere l'evento del ti salta addosso e nemmeno parli. Devo dire che questa sì, in effetti è un'esperienza che ho già vissuto e spero che insomma sia migliore di una che ho già avuto in passato. L'hai incorniciata nelle tue memorie e ogni volta la riguardi e ci ispiri tutta la tua vita? No, questo così, proprio così no, però è una cosa abbastanza bizzarra, mi fa pensare quanto gli uomini siano capaci di applicarsi e di inventare pur di ottenere una cosa che molto spesso noi donne daremo molto più, insomma. Tu dici non sarebbe bisogno di fare tanta fatica? Vabbè, dipende, insomma, sicuramente il corteggiamento è una cosa che fa piacere, però arrivare ad elaborare certe cose, fammi un esempio, a me è capitata una cosa, e niente, praticamente io ero a casa con l'influenza, quindi avevo tempo di navigare su internet. Era anche bella calda, oltre i 42 gradi. Esatto, tanto. E quindi stavo su Facebook e ho cominciato a chattare con una persona che non avevo mai visto, e questa persona, insomma, tra due chiacchiere così mi ha detto: mi piacerebbe portarti la colazione a letto, no, coccolarti così. E io gli ho dato il mio indirizzo di casa, così come insomma, come per sfida, cioè, no, tu te la manderei. Ami il rischio, stai a letto, sei malata, uno sconosciuto ti porto il cornetto e tu subito gli dai il tuo indirizzo. Ma non lo so, la presunzione di pensare di avere l'intuito di non di non trovare veri matti, perché poi matti li trovo sempre, c'è sempre persone un po' particolari. Questa era la presunzione su cui galleggiano le vittime di Jack lo Squartatore. Quindi. Esatto, infatti. È un bel personaggino. Lo so, purtroppo sono un po' amante del mi piacciono rischio. Le emozioni, ecco. Vabbè, allora dimmi questa emozione com'è andata poi. Quindi è andata che praticamente lui mi ha... Ma tu ti sei preparata nel frattempo? Sei stata a letto con i calzerotti di lana? Ti sei data una pulitina magari, no? Ma no, io ero proprio... Cioè, premesso che anche questa persona abitava lontano, cioè esattamente abitava a Napoli. E quante ore ci ha messo a portarti il cornetto? No, non è venuto lui. Mi ha spedito a casa una scatola... Di cornetto? Con dentro c'era una tazzina con una Nutella... E pare anche le fette biscottate, ma non ricordo. Poi ma quanto, un libro. Quanto tempo ci ha messo questo pacco qua arrivare? Ma un giorno, dopo è arrivato, o il giorno dopo, due giorni dopo, non mi ricordo. Poi c'era un libro, SS Amore, e due CD, uno di Kate Jarrett, che sapeva perché parlando gli avevo detto che mi piaceva molto, e di Whitney Houston, e quindi io sono rimasta, insomma, sorpresa da questa... Vabbè, un gesto gentile, dai, una persona gentile. Sì, è finito. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E niente, poi mi arriva così all'improvviso, a sorpresa, una scatola grossa. E mi ricordo che mio fratello pure ha detto: no, non aprirla, insomma, questo è un pazzo, così. E insomma, per questa scatola c'erano dentro dei palloncini e poi c'era una lettera dove c'erano scritti gli ingredienti per trascorrere una serata dove senza di lui, no, in attesa di incontrarlo. E c'era una bottiglia di vino costosa, dei cioccolatini sempre artigianali, una bella scatola grossa di cioccolatini, sempre che questi sì, comunque costosi. E il DVD di La casa sul lago del tempo con Keanu Reeves, che è quella storia di due che si amano senza essersi mai incontrati. Lui voleva, c'erano le istruzioni per cui io quella sera dovevo scegliere una sera in cui non dovevo chiamare nessuno, sentire nessuno e stare a casa, e neanche lui avrei dovuto sentire. Quindi niente, insomma, faccio questa cosa, poi il giorno dopo lui tutto contento, insomma, così. E alla fine lui mi chiede: cosa preferisci vedermi, a Natale, perché era sotto il periodo di Natale, prima di Natale o dopo Natale? E io ho detto: guarda, facciamo prima, così almeno se poi quando lo incontro viene fuori che è una persona che non mi interessa, Il Natale lo passo con qualcun altro, cioè. Esatto, il capo, cioè, non passo tutte le vacanze con l'aspettativa di incontrare chissà chi. Ragione. E quindi niente, lui arriva, prenota una suite, andiamo a cena, mi porta a cena fuori con questo sguardo un po' malinconico. Era bello, era un bell'uomo, com'era? Era un bell'uomo, anche, voglio dire, anche colto, interessante, comunque effettivamente era una persona che faceva, cioè era un imprenditore veramente, cioè, piaceva, oltre che un ingegnere. Sì, mi piaceva, strano perché uno magari, sai, non si vede su Facebook, però può vedi la foto quasi se. Mi è piaciuto, quindi mi porta al ristorante, chiacchieriamo, io ero tutta contenta perché insomma sono un po' una sognatrice, poi idealizzo, cioè proprio, cioè, ero contenta, no, di averlo visto questo. E mi porta in albergo, mi stende sul letto, mi comincia a fare i massaggi, e lo vedevo che aveva un modo di fare, cioè mi guardava ed era come dispiaciuto, e però non si avvicinava più di tanto, mentre io volevo a quel punto insomma vedere poi se mi piaceva fino in fondo. Forse, no? Forse aveva dei problemi lui in quel momento. Aveva dei problemi lui, esatto. Vabbè, capita. Dopo 2 mesi di regalini, un po' di ansia di prestazione ci sta. E in realtà poi è successo che lui mi dice: no, non posso farlo, ti farei del male. E io ho detto: ma scusa, che c'aveva? Che un elefante? C'ho quasi 40 anni, voglio dire, insomma, sono consenziente. No, è così, ti farei troppo del male. E io ho detto: ho pensato sarà gay, c'era qualche c'aveva problema di impotenza. Con le spine, cosa c'aveva? Non capivo, insomma alla fine l'ho convinto, e a un certo punto però non so per quale motivo ho avuto un'intuizione e gli ho detto: ma tu sei sposato? Perché lui si era presentato a me, non so se questo, ho detto ovviamente come single, no? E lui mi ha detto sì, e ho fatto: ma i figli? Sì, 2, io anni, uno di 2 e uno di 4, al che, cioè, mi sono alzata e... Vabbè, un vero cretino, scusa, un vero cretino, un vero cretino, da dirtelo mezz'ora dopo o non dirtelo per niente? Quindi io mi sono incazzata, gli ho detto: cioè, fai schifo, anche perché, cioè, me lo potevi dire subito, io comunque un'avventura magari non l'avrei fatta perché francamente sono proprio contraria a questi maritini che vanno in giro a cercare avventure. Se ti piace, se l'avventura è reciproca, che ti importa? Guarda, mi ero illuso un attimo che lui avesse delle sproporzioni talmente esagerate, pure io, che sarebbe squartato. Mi sarebbe piaciuto anche a me. E invece niente, quindi niente sesso, mandato a quel paese e mi sono portata a casa un vero computer senza rispondere. Sì, un vero cretino. No, ma lui era dispiaciuto perché lui poi... Ma che ti aveva portato a fare? Che ti aveva portato a fare nella suite? Per fare cosa? Ma lo sai, ti posso dare la mia lettura da maschio? Sì. Lui gli attizzava la cosa, poi quando è stato lì ha avuto un problemino personale sotto l'ombelico e l'ha buttata sul sentimentalismo, perché si era attizzato, ma prima ti squartava e poi ti diceva dei figli. Ma guarda, tu sei ottimista, no? Ma non ottimista. Gli uomini non ci sono uomini così, con questi attributi così, cioè magari ci fossero quelli veramente, non so se posso dire una parolaccia, veramente stronzi, no? Che uno dice: vabbè, però tanto di cappello, no? Cioè esistono. No, ma non capisco, non capisco il tempo perso in mesi di regali elaborati, le bottiglie, i palloncini. Però guarda che tipo, guarda, questo non lo devi capisco. Chiedere, non lo so, non lo capisco, cioè figurati, anche io non l'ho capito. Sì. Più vado avanti più tanti non ne capiscono. Cioè, ma la moglie l'aveva tradita, porta un'altra donna in una suite, lei gli si spoglia, gli fa il massaggio, a questo punto è già consumato l'adulterio, tanto vale che ne prende la parte più divertente. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. E quindi dopo questa cocente delusione? Temi che oggi con lo scrittore succeda la stessa cosa? Io mi auguro di no, non dovrebbe essere sposato, questo è un po' più trasparente, ha un profilo Facebook vero e non finto come quello. Ha tutto da Facebook. Sempre su Facebook, anche questo qua. Se non è sposato, metti caso, lui c'è una donna con cui sta da 15 anni, si amano, stanno insieme, via dicendo, non è la stessa cosa. Oh mio Dio, no. Però allora io questo scrittore l'ho già incontrato una già volta. Visto. Sì, però non ci vediamo da un anno e mezzo, perché nel frattempo poi insomma la cosa è scemata, io ho avuto un'altra storia e adesso così abbiamo deciso di rivederci. Sembra plausibile che un uomo che tu conosci, vi corteggiate comunque via chat, che è una cosa normale, oggi avviene normalmente, come conoscersi al bar. Passa un anno e mezzo senza che vi vediate, dopo un anno e mezzo ancora voglia di vederti, ma mi sembra tanto strana. o è uno che comunque c'ha le riprese, c'ha il quaderno delle ripresine, una cosa normale, c'ha una serie di persone, nei momenti di vuoto ci ripigliamo su questa, rimettiamo su quell'altra, così ha un suo palinsesto delle possibili. Ma poi noi ci sentiamo con questo scrittore, ci sentiamo ormai da 2 anni e mezzo che ci conosciamo, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Vabbè, ma è una follia sentirsi tutti i giorni, ma nemmeno con una moglie uno si sente tutti i giorni. No, con i messaggini al telefono, ma nemmeno. Ma che senso ha messaggiarsi tutti i giorni con uno che non... Guarda, tu ti senti tutti i giorni con una persona che ti piace, che ami, che ti è simpatica, che ti vuol bene, che c'è qualcosa insieme, con uno sconosciuto che ti senti tutti i giorni a dirti che... Beh, allora adesso non è che ci sentiamo al telefono tutti i giorni, però magari qualche messaggino così su Facebook ci sta, nel senso che uno magari si scrive delle cose così. Beh, lui c'ha molti argomenti, nel senso che insomma fa sempre un sacco di cose, quindi mi piace. Sì, molti argomenti, meno l'argomento essenziale però per stabilire un rapporto, una relazione con una donna, secondo me. E conoscerla, guardarla in faccia, sentirne l'odore, far sentire il proprio odore, mostrarsi per quello che si è. Non voglio entrare in piani triviali, ma conoscersi, sfiorarsi, passare una giornata assieme, mi sembra una cosa banale. Non è che adesso vado lì con l'aspettativa di, come avevo fatto 1 anno e mezzo fa, di incontrare il grande amore della vita. Ma tu lo cerchi il grande amore della vita? Vado a trovare un amico con cui comunque sono stata bene, che però già so che probabilmente non vorrà di nuovo avere una relazione. Cioè, io cerco il grande... mi piacerebbe, diciamo che mi piace l'amore, dopo... Se ti piace l'amore, penso non ti piace la relazione, decidi uno o l'altro. È quello che mi dice sempre una mia amica, mi ha detto: se vuoi l'amore rinuncia al matrimonio. Due sono le cose. Non si può, se vuoi l'amore resta sempre qualcosa di tormentato, di difficile, di contrastato, di sofferenza. Quello si chiama amore e passione. Quando questo finisce inizia la relazione, è una bella cosa, mica dico che è brutta, è la persona che c'è vicino. La relazione secondo me è una bella cosa, perché è comunque avere vicino, soprattutto ai tempi nostri, avere qualcuno di cui ti puoi fidare. È il problema un che... badante, un vigilante, la stessa cosa. Sono un po' giunta alla conclusione che veramente bisogna essere in grado di basare a se stessi. Ma tu c'hai l'orologio biologico che ti dice: se non trovo uno cosa farò da vecchia? Cioè sei in questa fase, no? Vuoi sapere quanti anni ho? No, non voglio saperlo. Hai questo senso, dice: guardo la mia vita e non so cosa farò io, cosa farò poi dopo con questi amori che sì, mi lacerano l'anima e le viscere, però dopo non mi danno a fidare. Che farò dopo? Quanto durerà? E sai che non ci ho pensato. Allora, l'orologio biologico ormai, diciamo che non ho questo grande desiderio di maternità, se non quando ho una relazione, allora mi piacerebbe avere un figlio con l'uomo con cui sto, ma quando sono così, ormai saranno 4-5 anni che sono single con questi incontri di gente, uomini assurdi, no, non ho questo desiderio. Sì, però gli uomini assurdi ti danno comunque ogni volta la sensazione della caccia alle ossa. L'uomo che c'è accanto, ormai abituata come sei a questa roba di andarsene in giro con lo zainetto a conoscere persone, non so quanto riusciresti poi a sopportarlo, sempre la stessa persona vicino, che ti alzi la mattina è quello, lo ritrovi la sera uguale e sarà uguale nei prossimi 20 anni, anzi andrà solo peggiorando. Magari se trovo una persona molto interessante che riesce a stupirmi anche senza farmi spostare, magari sì. Comunque siete, guarda, voi femmine oggi siete qualcosa di impre, dite tutte le stesse cose. Perché? Avete un modello in testa inesistente. Lo volete appassionato, corsaro, pirata, violento, cattivo, che vi laceri e vi distrugga, ma allo stesso tempo deve essere fedele, buon padre di famiglia, darvi sicurezza, accomodarvi il lavandino, sturarvi il cesso, farvi la spesa. Vabbè, ma non esiste sta roba, allora compratelo. Beh, guarda, anche voi uomini avete un ideale. Cioè, non lo so, io non ho più nessun ideale, non mi aspetto più quello niente. Purtroppo anch'io sto per me. Io penso che sia abbastanza normale che noi abbiamo, cioè tutti noi sogniamo e abbiamo magari un ideale, però poi la differenza tra me e magari gli uomini, perlomeno quelli che ho incontrato anche ultimamente, è che comunque poi so accettare i difetti della persona, cioè sono una molto paziente. Cioè poi tra il sogno e la realtà, cioè nella realtà riesco ad accettare anche... Guarda, gli uomini oggi non fanno più nessuna fatica, cara, buttano la canna da pesca, si sdraiano sull'amaca e aspettano il pesce che abbocca da solo, manco c'è più bisogno dell'esca, quindi figurati, è una passeggiata e non è più nemmeno una fatica, non so se è meglio o peggio, so solo soltanto la mia stazione è arrivata, ti saluto, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie, ciao. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Chi si rivede? La ragazza con la chitarra senza chitarra, o perlomeno la chitarra è nella cappelliera dentro la sua custodia, mi sembra strano. Non ho mai vista con la chitarra chiusa dentro il suo involucro. Tiene in mano un libro, è anche molto presa da quel libro. Ma lei che legge il libro è al centro dell'attenzione degli altri viaggiatori, che stanno a lei davanti, banali viaggiatori col telefonino in mano, che parlano d'affari, che sfogliano giornali rosa che parlano di economia, di finanza, oppure la guardano con insistenza. Come mai suscita tanta attenzione e curiosità la ragazza con la chitarra con un libro in mano? Adesso nemmeno saluti perché fai l'intellettuale, leggi. Leggo. Non ti ho mai visto leggere i libri in treno? Beh, non ti ho visto per un po', allora ho detto vabbè, porto oltre alla chitarra anche i libri, così almeno faccio qualcosa di utile. Libro e chitarra, libro e moschetto magari, libro e chitarra è proprio è un binomio che non c'ha. Beh, niente. Beh, sei curioso di quello che sto leggendo? No, non me ne puoi importare di meno. Allora, perché chiedi? Vedo che il libro perché guardi, grosso. Però con l'occhio vedo che... No, a me non interessa, sembra un vocabolario, non so cosa. Ah, ma guarda, è tutt'altro che un vocabolario, te lo posso assicurare. Ma che sarà mai? Un libro. Cioè, tu quanto è lunga la tratta di treno farai? 2 ore, 3 ore? No, questa volta 4 ore e mezza. E dove devi andare? Devo andare a fare una specie di provino su. Una specie su. Di provino? Beh, che su. Per i provini non serve leggere libri, serve un bel rossetto e delle belle scarpe col tacco. Dai, devo fare un provino per con la chitarra, non lo vedi che ho anche la chitarra? Sì, vabbè. Una chitarra e 100 illusioni. Vabbè, adesso ti stai documentando, ti faranno delle domande. Mi sto documentando, sì, perché gli leggerò sicuramente quello che sto leggendo ora, ma non credo. Questo probabilmente è un testo per prepararti al provino. Sì, vuoi che te lo leggo? Cioè avrai una prova orale a cui dovrai... Orale, sì. E questo testo orale, ti aiuterà? Orale, sì, prova, non lo so se mi faranno fare quello che sto leggendo, però vabbè. Perché, dai, diciamo, fammi vedere la copertina. No, che schifo. Che cosa orribile. Senti, l'ho letto anch'io perché tutti mi dicevano leggi, dai, perché il film è stupido, il libro è più carino. Ho detto vabbè. No, perché tu lo leggi in treno. Lo leggo in se treno. Se ti vede la persona davanti a leggere questo libro, comincia a farti piedino. Questo puoi capirlo. No, ci metto tipo qualcosa che copra la macchina. Sì, come una volta quando si comprava Playboy che si infilava dentro. Sì, ci metto tipo Repubblica. Il Messaggero oppure qualche altro giornale. Cioè, lo vede uno, si leva la cintura, comincia a prenderti a staffilate. Dipende pensando... chi c'è davanti, a seconda di chi c'è davanti, ma... faccio vedere la copertina o meno. Ah sì, perché tu pensi che qualcuno in treno oggi che non ci sono più gli scompartimenti chiusi possa prenderti a staffilate. Però ci sono i bagni grandi. Madonna mia. Quale parte sei arrivata? Tu mi stai chiedendo delle cose mentre io leggo queste cose. È il primo volume della saga. Sì, è il primo e penso sarà anche l'ultimo. Sì, figurati. Vuoi che ti leggo un pezzo? Leggilo. Dai, tanto tu l'avrai letto, però te lo rileggo. No, non l'ho letto. Vabbè, dai, te lo leggo. Non mi vengono i brividi. Guarda, ti leggo un pezzo dove sono arrivata adesso io, che stiamo iniziando. Cioè, sono quasi alla fine. Ah, è finito. Beh. Che mi fa un po' ridere, comunque. Sì, tutte dicono così, ti fa ridere e poi in realtà lo leggi. Ma adesso ti spiego perché. Senti, stavo iniziando a leggere questa frase quando sei arrivato te. Il contesto non me lo dici? Qual è il contesto? Il contesto è che stanno in bagno, tipo, mi sembra. Ah, ecco, perché dicevi le toilette del treno. Sì, però adesso senti perché mi fa ridere. Allora, dov'è che ero? Qua. Mi piace la tua gonna, è cortissima, dice con voce roca. Hai delle splendide fa la voce gambe. Roca. Mi piace la tua gonna. Ah, così. Aspetta. Quattissima. Lo devi fare te, allora tu fai lui, io faccio lei. Dai. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Allora, si toglie le scarpe e si china a sfilarsi i calzini. Già qui, vabbè. In bagno? Senza staccare... Sì, senza no, come staccare... fa a togliersi i calzini in bagno? Fammi capire. Si siede sulla tazza. Ho capito, si appoggerà sulla vasca, si toglierà i calzini. Mo non mi fai anche confondere. Tenendo non i pantaloni. Ricordo. Allora, si toglie le scarpe e si china a sfilarsi i calzini senza staccare gli occhi dai miei. Ma perché si china? Se è seduto perché non si dovrà chinare... No, sì, allora sta come sta così, praticamente appecorato a togliersi. Vabbè, ma andiamo avanti, no, dai. No, voglio sapere. Wow, essere desiderata da questo dio greco. Mi tolgo le ballerine nere. Sai che puzza di piedi in quel momento, sì, in quel infatti, bagno. Cioè, tra i calzini e le ballerine. Chissà se c'è l'aspiratore o c'è la finestra. Mamma mia, non lo so. Vabbè, comunque, all'improvviso lui mi afferra e mi sbatte contro la parete. Mi bacia il viso, la gola, le labbra, accarezzandomi i capelli. Sento le piastrelle fresche e lisce sulla schiena mentre lui preme contro di me. Perché aveva già fatto anche la pipì fuori del vaso, quindi erano bagnate. Schiacciandomi tra il suo calore e il freddo della ceramica. Vedi, ceramica, sta nel mare. Bagno antico con la ceramica. Esitante gli poso le mani sugli avambracci e sentendolo gemere stringo più forte. Ti voglio subito, qui, in fretta, senza pietà, mormora e mi tira sulla gonna. Hai ancora il ciclo? No, bene. No, anzi. Ridi. Infila i pollici nei miei slip bianchi. Poi si mette in ginocchio e me li strappa di dosso. I pollici. Cioè entrambi i pollici. I pollici. No, come perché fa? Sono quelli più consistenti. No, entrambi i pollici. Cioè tiene le mani giunte. Come fa? Tiene le mani giunte. Infila i pollici. Non è entrambi. Infila i pollici. È entrambi giusto, i pollici. Sono due, c'è ragione. E te le mani giunte. Vabbè, fa così tipo. Vabbè, non facciamo sti gesti, però vabbè. Poi si cioè mette come in un'ostetrica quando le parturire una donna. Sì, perché è un esperto lui, capito? Beh, certo, è un esperto sì. lui, cioè. Poi ma lei si sta mette appoggiata di spalle, scusa. No, lei sta... Sinceramente non mi faccio queste domande. Eh no, scusa, no, io sono un tecnico. Lei sta con le spalle al muro o faccia aspetta, al muro? Aspetta, fammi finire e magari capiamo. No, che i pollici perché... che se lei sta con la faccia fammi al muro fammi finire e poi paghiamo, cioè, capiamo. Allora, poi si mette in ginocchio e me li strappa di dosso. Cosa? Gli slip bianchi. Ho la gonna sollevata. Ma lei ancora li indossava? Ho la gonna sollevata e sono nuda dalla vita in giù, anzi muvogliosa. Lui mi prende per i fianchi, spingendomi di nuovo contro la parete e mi bacia all'interno delle cosce. Mi costringe ad aprire le gambe. Ah, lui sta ancora per terra. Sì, cioè tipo, lei sta schiacciata solo... Dai, non è questo il punto comunque. No, è importante. Uno da questo punto dovrebbe essere già coinvolto e non si chiede dove stanno, che fa. Sì, ma a questo punto non ti immagini più la scena. A parte lo schifo dentro un cesso, sai che poesia. Con i calzini buttati là vicino. Con le piastrelle bagnate. Vabbè, comunque il culmine arriva quando dice quando la sua lingua mi avvolge il clitoride e mi sfugge un mugolio. No, scusa, fammi capire, che è un formichiere. Cioè lui sta dietro, con i pollici. Non sta dietro, sta avanti, l'ha sbattuta contro la parete. No, lei faccia il muro alla parete. Lei faccia al muro. No. Faccia al muro. Dove sta scritto faccia? Lui mi prende per i fianchi spingendomi di nuovo contro la parete. Non c'è scritto faccia al muro. Tu ti stai, vedi, sta entrando già in una tua immaginazione della scena. La specie di formichiere che la avvolge. Vabbè, la lingua gli sbatte poi. Vabbè, gli sbatte poi te l'ho detto. Poi come mi costringe ad aprire le gambe. Costringe, quando, cioè, mi costringe. Sì, lei poi era mi molto mi pare che a quel contraria. Punto già sta facendo la spaccata lei, cioè. Esatto. Quando la sua lingua mi avvolge il clitoride e mi sfugge un mugolio. Mi sfugge, proprio perché così, vabbè. Ma però adesso fammi ridere. Capire, a voi donne attizza legge sta roba? Cioè, ma ho capito. No, domanda stupida e sciocca. Allora, io sono arrivata a una conclusione, anche perché sono no, poi sincera, veramente. 540, perciò insomma un po' di cose le ho lette già. O sei nel filone di pensiero della scrittrice, cioè tipo o vedi il sesso come lo vede la scrittrice, una tristezza così però. No, perché tipo le ballerine nere, no? Questi dettagli, no? Che vabbè, lì per lì se la scena ti prende non stai a pensare a quello che ti dice. Io penso che non ci sia cosa meno attizzante che una appunto, donna con le ballerine. Poi che dici che lui che si sfila i calzini, anni, non lo so. Si sfila i calzini, ma chi se ne frega, cioè, ma voglio dire, non lo so. Ma poi perché, se sfila scusa? La camicia, se strappa la camicia, non lo so. Ma se calzini. Usa soltanto i pollici e la lingua, che si leva fai i calzini? Infatti sì, cioè che dettaglio, che senso dettaglio ha questo dettaglio? Forse più avanti lo capirò perché si è sfilato i calzini. No, potete ne- tra l'altro c'è le piastrelle fredde. Perché sì, infatti. Ma il freddo ai piedi non è che aiuta, cioè, molto. Poteva dire un'altra cosa, appunto. No, si sfila, che ne so, la cravatta. No, sai perché? Mi sembra quei libracci che si vendevano nelle stazioni negli anni 70, che erano tutte storie zozze. Era il sì. top dell'intellettualismo dire? Erotico. Erano tutti così. Ti posso dire mi prese cosa? Gemendo con il suo belisco di carne. Io poi l'ho letto a balzi, cioè quando mi annoiava andavo a cercare. Come film porno, andavi veloce avanti per vedere le cose zozze. Sì, basta. Tipo la trama non è importante, la trama, no? Però tipo poi non ho capito perché poi ho letto un altro pezzo dove lei si arrabbia. Perché lui la sculaccia. Ma come, non è tutto sulle sculacciate, le frustate? No, perché tipo lui le fa le peggio cose. Le vorrebbe fare le peggio cose per 500 pagine e poi a un certo non la punto mena mai. La sculaccia e gli dice: conta Anastasia, tu devi contare, mi ordina. E lei: no, no, lasciami andare. Ma conta non cosa, le frustate? Sì, ma mi con colpisce le mani di con la nuovo frusta? Il dolore pulsa e riecheggia lungo la ciglia. Ma con che la picchia? Santo Dio, con la cintura? Sì, due urlo, è un tale sollievo urlare. Poi, dopo che ha finito di contare, tipo fino a 6, lasciami andare, a un certo punto lasciami andare, non mi toccare. Raddrizzo la schiena e lo guardo, lui mi sta fissando con gli occhi sbarrati, sconvolto, come se potessi morderlo. Mi asciugo rabbiosamente le lacrime e gli rivolgo uno sguardo assassino. Ma perché lei non voleva più essere frustrata? No, perché poi gli chiede, è questo che ti piace davvero, vedermi così? E lì la tragedia, finisce il libro e lei se ne va. Sì. si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Finisce così, ah, cioè, hai fatto già lo spoiler. Finisce che gli dà 6 cinghiate e le dice sì, basta. Sì, poi tipo, vabbè, sicuramente ci sono altre pagine dove, dove lei gli dirà tipo, no, tu non me lo farai più questo che... No? Perché poi mi sembra che finisce che lei gli dice, io sono innamorata di te. E lui gli prende tipo un colpo. Beh, solo una donna innamorata si fa sbattere dentro un gabinetto da un uomo che si leva i calzini con i pollici. Giustamente, cioè, solo per i calzini, non per il resto. Ma no, ma anche il resto, dai. Perché già dopo che hai visto i calzini dici, oddio, vabbè, ti amo. Ma ti dove perdono. Erano? Nel bagno di, una, di un hotel? No, no, a casa di una stazione. Sua. A casa, ah, a casa sì, sua. Perché lui c'ha tipo sta casa dove c'ha la stanza dei giochi, la stanza di lei che diventerà tipo la e sua... va a finire al cesso di tante stanze. Eh sì, perché a lui gli piace tipo, andiamo a fare la doccia. Cioè lo dice più volte. Vabbè, ma sembra anche Lino Banfi, Bombolo e Alvaro Vitali sì, e la Fenech. Aspetta, Lino Banfi non è che se lo guardi dici sì, vabbè, ti perdono per i calzini. Cioè lì neanche ci arrivi ai calzini, forse. Con questo magari, insomma, un ecco, belloccio. Vi fa sognare. È un perché, belloccio, sì. Beh, belloccio, bellissimo. Beh, se lo associ. Poi ricco. Sì, è ricco sfondato. C'ha l'elicottero. C'ha l'elicottero. Dice, non mi ha portato nessuno sull'elicottero. Beh, solo certo. A te ti ho portato. Un uomo con l'elicottero. E lei si scioglie tutta. Vabbè, grazie. Poi cambia macchine, poi fa un po' il misterioso. Eccolo lì che in teoria dovrebbe scappare. Ma mi portarono sofferenza nella mia vita amorosa precedente uomini con elicottero. Perché di fronte a loro non puoi fare nulla. Porca miseria, arriva uno con l'elicottero. Non posso dirgli di no. Arriva uno con l'elicottero, che devi fare? Non c'è. Senti, non hai guarda, argomenti. Avrei pure i calzini brutti, però c'è l'elicottero. Andiamo, ti prego. Portami ovunque. Con delle lunghe pale. Però. E invece noi siamo sul treno. E vabbè. E noi siamo sul treno. Sono l'uomo del treno. E dovrò sempre soccombere di fronte all'uomo con l'elicottero. Almeno però leggo di qualcuno che va sull'elicottero. Magari basta. Mi va bene quello che sto andando a fare. Sì. Magari. Ecco, mi dici quale insegnamento di vita hai tratto, finalizzato alla buona riuscita del tuo provino, leggendo questo libro. Sinceramente è tutto un blocco, non ti ricordi un cavolo. L'unica cosa che ti ricordi è magari il momento in cui lo leggi, e magari ci sono dei momenti in cui dici, oh vabbè, si può fare. Il treno va. Vabbè, cioè, questo è chiaro, beh, chiaro. Ti colmano una mancanza. È riempitivo. Tu, ma riempitivo, se Nili. Tu hai una vita sessuale attiva, non ti viene da. Ma non è vero. Ma tu puoi avere anche una vita di routine, attivissima, magari di routine. Questa è l'illusione che esista oltre la routine qualcosa. Forse hai ragione. Forse magari è una relazione, però ti annoi. Inizi a leggere questo libro. Non necessariamente ti annoi, lo leggi per romanticismo. Solo per che non so. Cose. Secondo me la trasgressione, quando viene condivisa con milioni di persone, non ha più nulla di trasgressivo. È come no, il marito con i calzini non c'è nulla il sabato di sera. Guarda, perché vabbè, poi c'è. No, ma che cosa vuoi che ci sia? Ci sta l'attacca al muro, lei sta là, le piace, ci sta la cinghia, cioè non è tanto trasgressivo. Scusami, oggi ogni essere umano che abbia in mano uno smartphone digita YouPorn e di queste cose cioè, forse sai cos'è trasgressivo? Pensare che uno abbia la stanza, cioè una casa così grande, l'elicottero e la stanza dei giochi dove te fa tutto quello che sì, vuole. Sì, ma che giochi sono? Cioè, frustini, sembra vabbè, ma scusa, io ho mio figlio che va a cavallo. Se vai nella stanzina dove si preparano ci sono le cose, ci sono i finimenti, le selle, gli speroni, le fruste, c'è tutto. È roba per cavalli, cioè. È anche più affascinante come luogo, il fiero. Vabbè, ma la mettiti con uno stalliere, almeno c'è anche l'odore. Porca miseria, secondo me c'è ragione. No, c'è anche il forcone, c'è l'etame. Guarda, se vuoi essere umiliata per l'ho bene. Già finito, mi leggerò qualcosa su western, sai, queste cose. Vabbè, cara mia, mi hai dato ancora una più miserevole e desolante immagine, quello può essere l'immaginario erotico, ma sai, sul treno si hanno tanti pensieri. Stavolta è andata così, poi magari la prossima volta ti leggerò qualcosa di più ardito. Ma no, guarda, ce ne sono 3-4, voglia tu. Questo è quello no, grigio. Penso che c'è cioè quello rosso, sì, quello nero. Quello basic, cioè sì. Grigio. Vabbè, senti, sì. Cara, io scendo. Divertiti, no, ti consiglio di girare la copertina, però non tutti sono di larghe vedute. No, adesso come perché me. C'è Rite, sì. ti ho mostrato l'immostrabile. Infatti, pensa, non ci dormi costa. Ti ho mostrato tutte le sfumature, vedi? Sì, guarda. Dai, ciao, te lo cara. Presto, te lo presterò. Ma figurati, ce l'ho anche a casa, me l'hanno mandato. Faccio finta che me lo dimentico. Qua mi sa che scendo prima io, no? Sì, ma se tu vedi una zozzata, guarda una zozzata vera, non una zozzata che devo leggere 3000 pagine per vedere uno che la sbatte. Ti segno le pagine dove sono più scene, se vuoi, 500, 102. Ma non, l'erotismo non è più suscitato dalla letteratura, capito? Non è più suscitato, no, non so da cosa, ragione. Forse dalle scariche elettriche, dalle droghe pesanti, non lo so. Sì. Vabbè, ti saluto, ciao ciao. Gianluca, no, aspetta, ti volevo far sentire la canzone del provino. Niente, è già andato via. Secondo me, sotto sotto, ripensava a qualche sfumatura. Vabbè. Mi scrive una persona molto giovane e mi fa piacere, perché di solito i miei compagni di viaggio non sono persone naturalmente attempate, ma hanno alle spalle comunque una vita vissuta, vissuta anche intensamente. Questa è una ragazza che nella vita ama sognare e ama ballare e ha realizzato entrambi i sogni, il ballo e la possibilità che il sogno di ogni donna si realizzi, e quindi probabilmente potrebbe essere una persona felice. Ma non è così, perché sognare e ballare vanno bene, ma quando non si incontrano mai, nei momenti sbagliati. Caro Gianluca, ho pensato di scriverti senza firmarmi per evidenti ragioni, che ora ascolterai. Ho 27 anni e ho una grande passione per il tango, che ballo da 3 anni. Come anche tu saprai, è notoriamente un ballo molto sensuale e si fonda su un'interazione molto stretta tra l'uomo e la donna. Da quando ho cominciato a praticarlo, mi è capitato anche di avere 2 storie molto brevi con 2 miei compagni. In entrambi i casi non sono andate bene perché, al di fuori della pista, dove tutto è magia, sono emersi altri aspetti contaminati dalla realtà, come dico io, che hanno pesato sulle relazioni. Poi, un anno fa, ho conosciuto un mio coetaneo che finalmente non aveva nulla a che fare col ballo. Fa un lavoro in tutt'altro ambito. Ci siamo innamorati e conquistati in 1 settimana. Mi dirai allora, che vuoi da me? Purtroppo la storia non è finita. 2 mesi fa è ritornato nella mia scuola il mio primo maestro, un 40enne immancabilmente affascinante e seducente. Quando lo vidi, fu un'apparizione. A tutte noi novelle iscritte al corso di tango faceva proprio sangue, diciamolo. Ma lui niente, sposato, non ha mai dato segnali di possibili trasgressioni. Ma 2 mesi fa, quando l'ho salutato di nuovo, ho colto nei suoi occhi uno sguardo diverso. Uno sguardo che mi è parso interessato. E non mi sbagliavo. Un giorno mi ha chiesto di accompagnarlo ad un'altra scuola. E a me non sembrava vero, lui, l'inarrivabile. Una parte di me sperava che lui non fosse cambiato, che fosse l'uomo serio di una volta. Un'altra parte, invece, sognava l'avventura. Ovviamente la prima ipotesi era quella sbagliata. Lui ci ha provato con grande sicurezza e io ci sono stata. L'ho fatto per narcisismo, per gratificazione. Avrei voluto raccontarlo alle mie compagne di corso e dire loro: avete visto? Alla fine ci sono riuscita io. Ed ecco 2 sogni che si realizzano in tempi sbagliati. La ballerina cambiva quello che è il premio più inarrivabile per ogni ballerina: riuscire a sedurre il proprio maestro. Il maestro che la guida, il maestro che appartiene a una stirpe di dei, il maestro che è intoccabile, il maestro che è integerrimo, il maestro che non ha sesso, anche in un ballo in cui il sesso è il fulcro fondamentale. Quante volte l'avrà stretta, quante volte sarà strusciato su di lei, quante volte lei avrà sentito il palpitare di lui maschio sotto quel vestito attillato, ma sempre comunque nel compromesso del gioco del ballo. Ed ora finalmente lei può impugnare di fronte alle altre il fatto che lei l'ha preso quell'uomo, l'ha fatto suo, l'ha posseduto. Una botta di narcisismo, sì, ma anche un grande trionfo. Però questo va a coincidere con l'altro sogno: il fidanzato, la sicurezza, l'uomo che penserà a lei, colui che starà sempre a fianco a lei, il padre dei suoi figli, la scintilla del suo focolare. Potevano nascere in tempi diversi questi sogni e invece si sono sovrapposti. E quindi, passato questo senso di gratificazione, sono stata ben presto catturata dai sensi di colpa, indecisa su cosa fare. Con il mio ragazzo ci siamo sempre reciprocamente promessi che ci saremmo sempre detti tutto. Nessuno di noi pensa che l'amore sia perfetto, anzi, e nessuno dei due ammazzerebbe l'altro per una sbandata, una debolezza momentanea. Il problema è che ora il maestro mi vuole rivedere. Io non mi faccio illusioni, vuole solo sesso, ma non è questo il punto. Il punto è che ora mi sento diversa e sleale. Mi rivolgo a te perché non so cosa fare. Premetto che io sento di amare ancora il mio fidanzato, che voglio rimanere con lui. Sono scissa e indecisa. Vorrei liberarmi di questo segreto, dirglielo, beccarmi la sfuriata e poi però andare avanti con questa piccola ferita, ma che mi farebbe chiudere questa vita parallela. Oppure non dirgli niente, ma con il rischio che io ceda ancora una volta alla tentazione di rivedere un 40enne a cui già so che difficilmente resisterò, rischiando di buttare a mare la relazione a cui tengo di più. È un bel problema. Ti darò qualche consiglio. Tu confessi al fidanzato che sei stata l'amante appassionata, la donna strapazzata e posseduta dal tuo maestro. primo, non eviti che continui ad avere la tentazione del maestro, anzi, ti sentirai assolta nella coscienza e più volentieri e più facilmente cederai ogni volta che lui ti chiederà qualcosa oltre il ballo. Resta il problema del fidanzato. Lui potrebbe anche perdonarti. Se ti ama, potrebbe, insomma, passarci sopra. Si arrabbierà un po', avrete una crisi, non vi parlerete per un po' di tempo, poi alla fine probabilmente ti riprende. Ma tu perderai la sua stima. Una donna difficilmente confessa un suo cedimento all'uomo con cui sta assieme, l'uomo con cui comunque si è fatta delle promesse, ha fatto un patto. Quando lo confessa, vuole metterlo alla prova, perché vorrebbe che quest'uomo avesse una reazione da uomo. Se l'uomo perdona, l'uomo non sarà mai più perdonato, perderà ogni stima. Tu quest'uomo, sì, te lo terrai probabilmente, sarà anche il padre dei tuoi figli, ma sarà il tuo zimbello per tutta la vita. Che te ne fai di uno zimbello, di uno che non ha saputo nemmeno reagire di fronte al suo rivale, a colui che ha preso la sua donna, non ha saputo sbatterti contro il muro, arrabbiarsi, non perdonarti. Niente è più imperdonabile che il perdonare il tradimento di una donna. Quindi, consiglio cinico ma realistico, tieni il fidanzato, fallo vivere nell'illusione che è il solo, unico, splendido uomo della sua vita, che lo ami tantissimo, che fare l'amore con lui è la cosa più esaltante della tua vita, e continuerai ogni tanto a concederti al bel maestro finché lui avrà voglia di te, fino a che non si stancherà. Per te non sarà la fine, sarà l'inizio, e sarà un inizio di compromesso che è l'unica maniera di poter mantenere per tutta la vita una persona accanto.